Io non sono una persona che ha dei problemi. Sono i problemi che hanno me. I miei problemi non mi sopportano più, parlano tra di loro, si consultano. Alcuni vivono a casa mia. Ultimamente ho una storia d'amore con disoccupazione, che dorme con me. La mia ragazza, quando ci ha visto, si è incazzata, è andata via. Mi ha lasciato. Stamattina sono stato svegliato da una citofonata, sapete di chi? Gastrite! Che voleva salire su, erano 6 mesi che non la sentivo e l'ho fatta salire. Vado in cucina e chi ti trovo? No, dico, chi ti trovo? Affitto, nervoso, che si sta facendo il caffè. Affitto, come va? A me di questa, oh, come va? Ma ti rendi conto del casino in cui siamo, oh? Ma ti rendi conto del casino in cui ci ha messi, ah, bello? Senti, Affitto, fammi il piacere, parla con Debiti e mettetevi d'accordo. Io non è che tutte le mattine posso dar retta a tutte e due, eh? Ah, bello, io è tutto il giorno che parlo con Debiti, non sappiamo più cosa pensare. Anzi, sai che ti dico? Facciamo così. Affitto compone un numero, mi passa Debiti dicendo, tiè, parlaci tu con Debiti. Pronto, Debiti. Come va? Come va? Non va mica bene? Sono qui con bollette scadute, ma che dobbiamo fare con te? Sì, lo so, Debiti, hai ragione, ma stai calmo, eh. Oggi pomeriggio ho un incontro di lavoro a Firenze alle 3. Scusa, parlo piano perché di là c'è disoccupazione e tu sai quanto è gelosa. Insomma, forse qualcosa riusciamo a risolvere. Un incontro di lavoro, dici? Speriamo bene. Attacco. Affitto mi guarda. Oh, che è sta storia? Ma che ci abbiamo un incontro di lavoro? Sì, Affitto. Abbiamo un incontro di lavoro a Firenze oggi alle 3. Vabbè, allora andiamo, no? Affitto si alza e si mette la giacca. Montiamo in macchina e con me vengono disoccupazione, Affitto vestito bene e gastrite, che da quando l'ho fatta salire mi sta sempre aggrappata. In autostrada, andando all'incontro di lavoro, a un certo punto inchiodo. Una persona davanti a me mi fa cenno di fermarmi. A guardarlo bene, mi sembra di averlo già conosciuto in passato. Ah, sì, ruota bucata, mannaggia. Allora mi fermo, accosto, ruota bucata ci viene incontro sorridendo a 36 denti. Ruota bucata oggi è particolarmente allegro, perché sa che la settimana scorsa mi hanno rubato la ruota di scorta. E quindi lui oggi non fa la comparsa, no. È proprio il protagonista assoluto. Ruota bucata mi dà una pacca sulla spalla e mi dice allora eri in partenza? Eh sì che ero in partenza, ruota bucata, stiamo andando a Firenze per un colloquio di lavoro, disoccupazione si insospettisce. Ecco, infatti io non ho capito, ma perché stiamo andando tutto quanto a Firenze? È per una gita, lemento, ma interviene Affitto. No, per un colloquio di lavoro, anche se a me mi pare tanto una fuga. Disoccupazione inizia a urlare, cosa? Ruota bucata assiste piegato in due dalle risate, gastrite per la pura mi sta aggrappata con le unghie allo stomaco, mentre Affitto dà un ceffone a disoccupazione dicendo oh, guarda che è tutto a sto casino, è pure per colpa tua, eh. Io per sedare la rissa che sta nascendo urlo, dobbiamo andare alla stazione, subito, tutti zitti. Andando alla stazione si aggiungono all'allegra brigata fame, freddo della Madonna e bancomat succhiato. Quest'ultimo è un personaggio molto austero, eh. Ti guarda sempre dall'alto verso il basso. Si è unito a noi perché avevo bisogno dei soldi per il biglietto. Saliamo sul treno e con me salgono disoccupazione, Affitto, gastrite che non mi molla un secondo, ruota bucata che non si capisce perché è voluto venire pure lui a Firenze. Poi c'è fame che mi parla in continuazione all'orecchio, freddo della Madonna e bancomat succhiato. Salendo sul treno ci rendiamo conto che nel treno c'è un vecchio amico storico del gruppo. Ricordati che sei solo come un cane. Nostra vecchia conoscenza. Arrivati alla stazione di Santa Novella, Santa Maria Novella, ci accorgiamo che aspettarci al binario c'è un altro vecchio amico, un rompicoglioni. Ritardo di 2 ore. Che saluta felice. Ehi ragazzi, finalmente ce l'avete fatta. Ma avete sbagliato binario? Ma che è successo? Ciao ritardo. Tutti lo salutano. Oh, non si capisce perché, ma ritardo è sempre stato molto stimato dal resto del gruppo, eh. Finalmente arriviamo al colloquio di lavoro. Apro la porta e seduto al mio posto c'è nervosismo. Non dico, ma è mai possibile una roba del genere? Nervosismo? Senti, fammi il piacere, stai calmo, eh. Nervosismo è un altro che nei momenti importanti c'è sempre. Durante il colloquio di lavoro tutti parlano, commentano ogni cosa. Disoccupazione quasi piange. Ma tu per uno così mi vorresti lasciare? Affitto mi dice, oh, ma che siamo venuti a fare qui? Ma torniamo a Roma, ma lasciamo perdere. Ma che ci importa? Gastrite convinta di farmi piacere mi fa i grattini allo stomaco. Ruota bucata ride come un matto e poi c'è fame che ormai canta vecchie canzoni napoletane. In tutta questa confusione il colloquio non sta andando benissimo. Ma a sorpresa l'uomo di fronte a me mi dice, sicché lei è la persona che stiamo cercando, la nostra azienda ha bisogno di persone come lei, la nostra azienda ha bisogno di persone serene, sicché le stanno bene 2.000 euro al mese. Affitto si gira di scatto, oh, Ma che è davvero, davvero? Affitto, stai buono. Tutti iniziano ad urlare, a gioire, a battere le mani. Sono felici. Forse si libereranno di me. L'unica a rimanerci veramente male è disoccupazione. Con lei stava nascendo davvero una bella storia d'amore. Una volta mi disse: io e te non ci lasceremo mai. Tutti la consolano. Nel treno per il ritorno i miei problemi dormono ed io sorrido. Nello scompartimento di fronte a me c'è una bambina. Avrà sì o no 10 anni. Tra 8 sarà nel pieno della sua bellezza. Anch'io le sorrido. Ma sì, la riconosco. È prostata!